Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08 minuti, buona domenica. Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e subito vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook, appunto Il riposo del guerriero, la trovate facilmente, perché l'argomento di oggi riguarda un posto dove molti di voi sono in questo momento. Tanti saranno in macchina, ma tanti saranno a casa. Abbiamo pensato infatti al ritorno dalle vacanze e quando si torna dalle vacanze si riapre la porta di casa sperando di non trovare delle sorprese che non sempre sono buone, ma banalmente la corrente che se n'è andata e nel frigorifero è successo di tutto. Faccio un esempio, a me è successo con le patate quest'anno, per esempio. Ecco, torno anche, sento un odore strano ed erano le patate lasciate così fuori che a un certo punto hanno preso un colore non proprio vivo. Ecco, e quindi c'è un odore tremendo, però grazie al cielo quelle cose lì si risolvono. Comunque, voltiamo tutto in positivo, si entra a casa, si apre la porta di casa e si dice la famosa frase, no? Home sweet home, in italiano è casa dolce casa, perché ci manca un po' il posto che ci coccola, anche dovrebbe farlo tutto l'anno, e quindi l'argomento di oggi sarà proprio la casa. Cercheremo di farci coccolare dalla casa che alla quale aneliamo, che magari non riusciamo a comprare ma che vorremmo acquistare, da quella che abbiamo quindi preso in affitto, da quella che non abbiamo, da quella che stiamo cercando, da quella che abbiamo appena comprato. Come la trattiamo? Insomma, un po' come una fidanzata, no? La accompagni, la guardi, dici saresti meglio così piuttosto che cos'ha? Cosa fai? Insomma, questo è l'argomento di oggi. Cerchiamo di parlare della casa in tutti i suoi aspetti, con i vostri anche, con il vostro rapporto che avete con la casa, al 349-238-6666 per i vostri messaggi o appunto la pagina di Facebook. Pensando al luogo, alla nostra dimora, mi è venuta in mente una vecchia canzone interpretata in questo caso dagli Animals, che tanti di noi hanno suonato con la chitarra. Cose da dire su questa traccia, che è tra l'altro una canzone statunitense ovviamente, ma non si sa bene chi l'abbia scritta, la cantano tutti, anche perché la si suona col giro di do, con la chitarra o canti la canzone del sole, la mi re mi, oppure canti la casa del sole, in italiano sarebbe così. E poi questi sono gli Animals, l'interpretazione loro del 64, e poi forse ricordate anche quella di John Best piuttosto che di Bob Dylan. Ci sono aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di casa nel riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. La casa è un cantiere sempre aperto, come la Sagrada Famiglia di Godì, è vero, insomma, non è infinita quella straordinaria chiesa, e ho corteggiato questa casa fin dagli anni Ottanta. Nel 2000 ci sono entrata in affitto e finalmente a giugno sono riuscita a comprarla. L'adoro e la considero il mio regno, come giusto che sia. Giovanna Mancini, ciao, buona domenica. Ciao Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Giovanna Mancini, giornalista di Casa 24 Plus, che da questo giovedì, come abbiamo trovato? È tornata dopo la pausa estiva, è tornata grande perché era in formato tabloid al giovedì in edicola all'interno del Sole 24 Ore. Adesso la troviamo sempre al giovedì, però all'interno del primo dorso del giornale in formato broadsheet, quindi grande. Mantiene tutte le sue sezioni, quindi la parte di mercato che interessa più i privati per il mercato immobiliare, la parte di tendenze, arredamento, tutto quello che riguarda la normativa, il condominio, e poi la parte riservata invece agli operatori, agli investitori istituzionali. Ecco, allora Giovanna, tu come consideri la casa? Perché l'ascoltatrice qui appunto dice il regno, piuttosto che qualcosa che siamo sempre sono sempre lì a mettere a posto, perché in effetti è infinita, puoi sempre fare qualcosa. Vero, no? Sia che tu sia in affitto, sia che tu sia proprietario della casa, c'è sempre da metterci mano, e effettivamente anche a noi risulta che per gli italiani è veramente il primo impegno, anche finanziario. Diciamo che il 30% circa del nostro reddito viene investito per la casa, che è l'affitto, il mutuo, l'IMU, ma anche l'arredamento, l'abbellimento, tutto quanto. Insomma, la casa è il nostro regno, è il luogo della sicurezza, degli affetti, del benessere, è il posto dove vogliamo tornare. E per gli italiani quasi guai non averla, perché noi dobbiamo comprare. Comprare. Più dell'80% degli italiani possiede casa, in questo siamo veramente unici, ci distinguiamo da tutti gli altri, perché per gli italiani chissà perché. Non so se vale questo solo per la casa o anche per gli altri. Non so se siamo così con questa fame del possesso per forza. Quindi vale per l'automobile, no? Il car sharing, per esempio, fa un po' fatica ad avere successo. Adesso comincia, a Milano adesso è nato anche uno nuovo, oltre a quello che c'era prima, e comincia anche in altre città. Però, insomma, sai, come l'auto, bisogna averla per forza. Probabilmente è così, forse anche come io che uso più la bicicletta posso dire che vale lo stesso. Io per esempio ho la mia bicicletta, però utilizzo ogni tanto il bike sharing, ma voglio la mia comunque, quella bella da tenere per le gite, per la domenica. E quella che devi tenere d'occhio, perché se no ne trovi due. Con due catenacci che costano più della bicicletta. Anche perché a volte ti ritrovi solo la ruota attaccata al catenaccio e la bici che non c'è più. Esattamente, il classico qua a Milano è ritrovarsi senza sella. Davvero? Sì. No, ma hai fatto male a dirlo, perché fai scattare quel meccanismo per cui mano a mano tutti gli altri, no? Sai, succede questo. Esatto. No? Comunque speriamo che in casa invece tutti abbiate trovato a posto al rientro delle vacanze. Questo sicuramente sì. Tu lo dici, casa dolce casa, quando torni dalle vacanze? Assolutamente sì, sì. Quando torno dalle vacanze, quando torno a casa la sera, casa dolce casa, quando giro la chiave per entrare in casa, tutto si scioglie. Qual è stata la prima cosa che hai fatto quando sei entrata a casa dopo, non so, 20 giorni, un mese, due settimane, una di vacanza? Un bel po'. Allora, ho controllato che tutto fosse a posto, okay, perché ho due gatte e devo stare attenta che avessero tenuto tutto in ordine. Dentro di me pensavo, speriamo che non abbiano dato fuoco alla casa. Era il mio pensiero costante. Non sanno ancora accendere i fiammiferi. Esattamente, ecco. Quindi bisogna tenere lontani dai fornelli. Tutto a posto, quindi tutto va bene. Posto. Poi la casa ha cominciato a diventare di nuovo la tua dolce casa. Paola Marella, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato. Paola, grazie a te. Paola Marella la conoscete per la trasmissione Cerco Casa Disperatamente, ogni giovedì alle 21.10 su Real Time. E Paola, a parte aiutare le persone a cercare la casa, mi sembra che si sia spostata a Parigi questa volta, vero? Questa volta siamo andati a Parigi, che tra le altre cose è forse la mia città in assoluto preferita, per cui sono stata anche fortunata, la conosco abbastanza bene, per cui mi è piaciuto molto viverla un po' meno come diciamo turista, ma un po' più nel profondo, diciamo, proprio della città. È una città secondo me straordinaria, soprattutto da un punto di vista architettonico, che per me è gioia per gli occhi. Ecco, allora Paola, gli italiani, in questo caso sono italiani che vanno a cercare una casa a Parigi. Sono esattamente italiani, ma che vivono già a Parigi, sì. quindi già, diciamo, da qualche anno parigini che cercano casa a Parigi, quindi hanno già un'idea comunque delle tipologie, delle case, di che cosa cercare, perché sai, Parigi è molto diverso cioè Parigi è una città completamente diversa dalle nostre città, sia come tipologia di vita, perché è molto divisa per quartieri, ma molto, cioè molto centrata sui quartieri e a seconda delle proprie necessità, perché è molto grande Parigi, ci sono dei mezzi straordinari, perché le metropolitane, come sappiamo, sono, mi sembra, 13, 14, non mi ricordo più quante metropolitane ci sono, per cui riesci a attraversarla facilmente, però scegli più la zona che preferisci, cioè proprio il quartiere. E quindi diciamo è meno interessante la vicinanza rispetto al lavoro, faccio un esempio, sì, e piuttosto che invece il fatto di essere in un quartiere che piace. Esattamente. Ecco. Allora, rispetto alle case che gli italiani cercano in Italia, quali sono le differenze principali? Beh, innanzitutto tra la Francia e l'Italia ci sono alcune differenze proprio importanti. Strutturali? Dunque, allora, innanzitutto strutturali, tu sai, non so se si sa, ma comunque in Francia per esempio le case vengono vendute a metri, ma netti, Infatti la prima cosa che colpisce quando tu vedi, per esempio, l'altro giorno abbiamo fatto vedere delle case di 65-70 metri e che ti sembrano molto più grandi, mi hanno chiesto, ma come mai sembrano molto più grandi dei nostri 65-70 metri? Ma perché noi vendiamo con dentro i muri, il commerciale comprende i muri, addirittura in un frazionamento anche le parti comuni che a volte si aggirano tra il 5-8% dell'intera superficie, quindi tu capisci che è una bella differenza in termini di metri. È un po' una fregatura, quindi, no? Ma noi è come pesare questa... col sacchetto, allora, senza Allora, noi abbiamo questo modo di vendere, effettivamente in Francia, a Parigi in maniera particolare, paghi probabilmente un po' di più a sì, metro. Okay. Per cui uno compensa l'altro, quindi, esatto, va bene. Okay. Esattamente. Quindi questa è la prima grossa differenza. La seconda differenza è che a Parigi hai per esempio delle tipologie che in Italia non puoi avere, per esempio ci sono i recuperi dei negozi, cosa che perché ci sono dei vecchi botteghe su strade che vengono recuperate a volte. Ecco, credo che in Italia invece questa cosa sia, dopo sentiremo anche un altro ospite, me lo conferma anche Giovanna, che può intervenire sì, Giovanna, no scusami sì. Perché c'è Giovanna Mancini, credo che sia la sua prima volta in radio in assoluto, sì. È terrorizzata a dover entrare, puoi dire, puoi parlare. Certo, no, volevo dire a Paola soltanto che sì. In Italia in realtà sì, è possibile, diciamo un po' complicato dal punto di vista burocratico, sì. Perché esatto. C'è il trasferimento d'uso, insomma è un esatto. Po' complesso. Sì. No, ma soprattutto devi mantenere dei rapporti aerilluminanti particolari, per cui per esempio in Francia, per la legge italiana devi avere dei rapporti aerilluminanti anche nelle ristrutturazioni, per cui in Francia per esempio nel recupero della bottega su strada vai anche sotto, cioè nella parte interrata, sì. Cosa che in Italia, per esempio, oggi fare una ristrutturazione in questi termini, mi corregga Giovanna, ma è assolutamente impensabile. Così come a Parigi, un'altra cosa che io ho visto, ci sono delle case di superficie netta, ma di 10 metri quadrati. Ma vivibilissime? Tra virgolette, sì, voglio sì, dire che questi 10 metri sì, quadri, essendo sì, netti, sono sì, più sì, grandi sì. Rispetto a quello che noi possiamo immaginare. Ma il bagno escluso, immagino. Scusami, Giovanna. Bagno escluso. No, bagno incluso. Anche perché non hanno il bidet, quindi ci vuole meno esattamente, spazio. Esattamente, ma voi non avete un'idea, perché io non ci credevo. I 10 ovviamente sono, abbiamo già detto che sono di più, perché rispetto sì, a quelli che consideriamo esatto, noi. Non è come ce li immaginiamo. Ma vi assicuro, sono studiate in modo che uno non riesce neanche a immaginare ad incastro e sono straordinarie. Noi in Italia questa tipologia di abitazione non possiamo averla, perché noi sotto i 25, mi pare, o i 30 metri quadrati non possiamo andare. È vero che i nostri sono comprese le mura, mentre lì no, però non possiamo andare. Non possiamo vendere come residenziale una superficie inferiore. Per cui insomma ci sono delle complicazioni che invece là non ci sono, quindi da questo punto di vista è un po' più semplice. Ecco, da Paola. Questo punto di vista è un po' più semplice, hai delle particolarità nell'architettura straordinarie, poi voi vi immaginate cosa sono dei recuperi di oggetti come immobili che troviamo in Francia, cioè non sono immobili degli anni 50, per carità, non voglio offendere, ma diciamo tutto quello che è stato costruito nell'immediato dopoguerra, sinceramente 50-60 da noi fa un po' così. Cioè non è proprio il meglio, no, ma no. Siamo abbastanza d'accordo con questo, insomma. Ecco, no. Diciamo che forse non abbiamo dato il massimo in quel momento. Guarda Paola, ti devo dire una cosa, stai facendo venire la voglia a tutti di trasferirci a Parigi, esatto, va bene così. L'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio Paola, è questo: alla fine abbiamo parlato anche dei costi, è molto più cara Parigi rispetto a una grande città italiana? Allora, è più cara rispetto a una grande città italiana, ovviamente se poi tu vai nelle zone quelle particolari, sì. Ma la differenza che tu hai in Francia, questo è molto importante e un po' stiamo avvenendo anche noi a questo, in Francia l'acquirente è molto più tutelato, addirittura tu fai conto che se stipuli un contratto di preliminare, tu i soldi che sono di solito versi un 5-10% al momento del preliminare, che da noi arriva anche al 30%, ma i soldi che l'acquirente versa rimangono depositati in un conto a lui intestato presso un notaio. Quindi diciamo che fino al momento del rogito il venditore non entra in possesso del denaro. E quindi, insomma, la tutela c'è da questo Comunque, punto la di volevo vista confermare, in Italia? effettivamente sì, in Italia è un pochino più complicata la situazione, ma quello volevo dire, Paolo, effettivamente anche a noi risulta che Parigi piace, poi saranno anche tutte queste le Adesso lo ragioni, ma vediamo allora, è sì. proprio una delle città che gli italiani preferiscono per investimenti soprattutto all'estero, no? Hai perfettamente ragione, infatti ci sono molti italiani che messo, anche perché se ho tempo vi dico anche che c'è le tasse sono fatte in maniera diversa, per cui tu paghi, noi paghiamo un tot su, come cedolare secca se hai l'inquilino, se hai Sì. l'inquilino come persona fisica, ma invece vai se invece è una società vai a calcolarti sul montante IRPEF, lì no. Paghi una tassa del 25% sull'85% che tu prendi e se tu no, che tu prendi con l'affitto. E oltretutto, nel caso, questa tassa sostituisce la tax d'abitazione che viene pagata invece da chi utilizza l'immobile, e che sono le nostre varie TAR, SUTAR, Anche se lì, se noi non abbiamo. sbaglio, le abitazioni di pregio sono molto tassate, insomma, che qua, come sai, da noi c'è Attenzione! molto dibattito Attenzione, sulle. perché l'entità è vero, hai ragione tu, questo sì, ma però pensa che c'è, hanno introdotto, adesso ti dico perché non mi ricordo esattamente la cifra, negli immobili di pregio tu puoi addirittura pagare il 50-60%, li lasci a disposizione, quelli nuovi, li lasci a disposizione dello Stato per 15 anni e in quel periodo non paghi tasse. E non vengono tassati come immobili di pregio per tutto il periodo, li paghi al 50-60% e li lasci a disposizione della collettività per 15-20 anni e dopodiché diventano tuoi e non paghi le tasse sugli immobili di pregio. Bene, Paola Marella, a questo punto, guarda, prendiamo un aereo, un treno, veniamo a Parigi, cercherai casa tu per noi, almeno nei sogni. Grazie ancora, buona domenica, ti vediamo il giovedì alle 21:10 con Cerco Casa disperatamente su Realtime. Grazie, ciao Grazie a Paola. voi, Ciao. grazie. Mi infatti fa Ciao. venire voglia di andare. Fa Qual è la venire voglia, città, sì. davvero la città più È richiesta? una delle Parigi. città più amate dagli Sì. italiani, anche se Londra su tutte, soprattutto in Europa. Ma quello che piace di Parigi è che appunto è un investimento sicuro. Tu prendi un bel bilocale, un monolocale, come diceva Paola, ci sono anche le case magari molto piccole, ma strutturate in modo che tu ci possa vivere, Sì. che vanno bene sia per te per una breve vacanza, sia come investimento da affittare, sia per i tuoi figli se vogliono andare a studiare a Parigi. Quindi sicuramente è una delle città che piace, piacciono il Marais, il quartiere Latino, queste sono un po' le zone. Ovviamente è un bel investimento, bisogna Ecco, avere. piace anche l'Italia, adesso parliamo solo di case in Italia, siamo partiti così guardando oltre confine, ma adesso invece rimaniamo a casa nostra, i vostri messaggi 349-238-6666, la pubblicità e parliamo di casa. Il riposo del guerriero. C'è un messaggio, vabbè, scusa, uno riguarda la bicicletta, lo scrive Stefano di Padova. Tra l'altro a Padova ci sarà il 21 una fiera molto importante internazionale sulla bici. Dice: ho un lucchetto totalmente dedicato alla sella della bici, quindi esiste. Andremo a Esiste. cercarlo. Scusate, rientriamo in argomento. Invece Emilio di Bari scrive: e non riesco ad amare la mia casa. Mi provoca stress, è come quando un vestito ti prude dappertutto. Bisogna Accidenti, cambiare. bisogna cambiare. Beh, cominciamo a cambiare l'interno. Prima di cambiare casa, che è difficile, costoso, proviamo a capire come mai non gli piace la casa. Sarà come è arredata, la disposizione degli Non spazi. che non sia costoso Anche arredare una quello. casa, però. Però insomma, sempre meno che o comperarlo, affittarlo, Quali sono le cambiare. stanze che piacciono di più agli italiani? Allora, su questo c'è un fiorire di sondaggi, di tutto e di più, però diciamo che un po' tutti convergono nel soggiorno, perché in Sì. Beh, effetti se pensi comunque a uno spazio che si ormai il soggiorno può. comprende E tutto. perché comprende la cucina, che Sì. infatti è l'altro spazio molto amato appunto dagli italiani. E quindi sono un po' queste due. Anche se, e questo approfitto per dirlo perché a Bologna a fine mese ci sarà il Cersaie, che è la fiera dell'industria ceramica, ma anche dell'arredobagno. Sì. Pare che il bagno negli ultimi anni sia salito in cima alle preferenze delle stanze, perché nel bagno si fa di tutto, ci si rilassa, ci si prende cura di sé, si riflette, si prendono le decisioni importanti. Così pare. E quindi ti guardo perché va bene, qualcuno l'ha chiamato il trono del sapere. Il trono del sapere, sì. Gli italiani, in questo ci distinguiamo dagli altri paesi, amano leggere in bagno, sì, quindi è il luogo veramente... Le riviste sono tutte lì. Poi bisognerebbe anche capire qual è la qualità delle nostre letture. E no, le donne, sai perché? Soprattutto. No, diciamo perché c'è un motivo, soprattutto per chi vive in famiglie numerose, o comunque più di 3 o 4 persone, succede questo, che spesso il bagno è l'unico posto dove nessuno entra, dove nessuno ti dà fastidio, infatti dove hai la tua intimità e privacy, e infatti quindi riesci a questo. Concentrarti in modo diverso, al di là di dove tu sia. E ecco perché è vissuto in questo modo, chi vive da solo o in due non ha proprio questa esigenza, sì, ecco, lo forse può fare, effettivamente può stare in un altro posto. Meno, però questa è una cosa interessante perché è proprio cambiato il bagno. Una volta era la stanza di servizio, insomma c'era giusto il necessario per l'utilità, mentre adesso la chiamano sala da bagno, quindi c'è di tutto, ci sono arredi, i materiali che vengono utilizzati sono molto più preziosi, più raffinati. Siamo nel 700, siamo tornati. Siamo andati nel 700, ma il gusto è quello minimo, al contemporaneo, molto pulito, quindi insomma in realtà il bagno è un luogo, quindi il nostro ascoltatore potrebbe cominciare a cambiare l'arredo o le finiture del suo bagno, insomma, e cominciare da lì. E poi la cucina soggiorno, sempre più spesso ormai è una stanza unica, in questo si spende molto, e anche qui quello che prevale negli ultimi anni è questo gusto molto minimale, molto di design, che è un po', se vogliamo, anche quello che caratterizza tante nostre aziende, il made in Italy, quindi insomma c'è un problema tecnico molto... Una volta si tendeva a dividere la cucina nel soggiorno per gli odori, perché quando tu cucini, insomma, gli odori vanno in giro, se friggi poi sei fritto. Perché i divani si impregnano, eccetera. E com'è risolto che non si cucina più? Delivery, per esempio. Oppure insomma si sopporta un po', magari poi si va a dormire da un amico quella sera, si aprono i balconi, quindi insomma in qualche modo, certo, quello è, ma si cucina sempre meno effettivamente, forse anche per questo le case si restringono, anche per questa ragione passiamo meno tempo a casa, però proprio per quello il poco tempo che ci passiamo deve essere un tempo in cui ci riconosciamo, insomma, ecco, quindi... Ecco come sono cambiate le cose. Vediamo quanto spendiamo invece. Andrea Polo, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Responsabile di facile.it, prestiti.it e altro ancora. Allora, Andrea, gli italiani come spendono questi soldi quando si tratta della casa? Beh, li spendono in varie maniere. Chiaramente il primo punto è l'acquisto. Sì. Mediamente in Italia una casa costa oggi 170.000 euro, cifra molto più bassa di quella che invece è sempre in media. È la spesa necessaria per comprare a Roma o Milano. In questo caso si parla di cifre che oscillano intorno ai 220-250 mila euro. Questi sono i dati dell'osservatorio, ecco, di immobiliare.it. C'è un fenomeno però, nel senso che si tendeva ad uscire dalla città per risparmiare. Esatto, infatti questa era l'altra cosa particolare, cioè se prima i costi delle case spingevano soprattutto le giovani coppie ad andare fuori dalla città, oggi sta succedendo l'opposto. Ci si è resi conto che l'uscire fuori in realtà poi non è tutto questo grande risparmio, perché non è stato sviluppato in parallelo la rete dei servizi. Se l'infrastruttura e i servizi sono fondamentali. Uno quando spende di abbonamento per il treno. O di automobile, banalmente, di che benzina, sei costretto a comprare. Esatto, o anche appunto soltanto di consumo, treno, come dicevate prima. E sì. Quindi si stanno riportando verso la città le persone che ha comunque una qualità di vita sovente migliore, al di là di quelli che ovviamente sono magari gli spazi verdi che non abbondano, con soluzioni particolari, per cui si stanno ad esempio riconvertendo quelli che una volta erano i vecchi negozi su strada o anche addirittura i garage su strada, e li stanno trasformando in abitazioni. Ecco. Abitazioni... In questo ti chiedo, Andrea, nel senso che sia in questo diceva anche Paola Marella prima con per la realtà di Parigi, però appunto Giovanni diceva si sta facendo anche qua, ma ci sono delle limitazioni in questo senso per quanto riguarda le leggi italiane, per la luce per esempio, quindi le ristrutturazioni che vanno fatte in questi posti sono tante. Beh, in realtà sono molto meno di quanto non si pensi, sì. Perché comunque sia partiamo solitamente da degli ambienti che sono degli ambienti unici, senza pilastri al centro, e dove in realtà la luce e il ricircolo dell'aria vengono garantiti in maniera abbastanza semplice, intanto perché si sfrutta quella che era l'apertura principale del negozio, che sovente diventa a metà, si chiude per lasciare un po' di privacy e poi diventa finestra. Il retro solitamente chiuso invece si unisce, quindi anche dietro abbiamo sovente delle aperture, siano porte, siano finestre, e comunque ormai esistono degli studi di architettura quasi specializzati in questo genere. Certo, di per rispettare comunque quelle che sono le regole, ovviamente. Certamente sì. Togli via la Claire, perché altrimenti quando entri ed esci qualcuno la tiene. Tanti la tengono perché è parte del fascino di questo certo. genere di negozi. Nell'ultimo periodo, ad esempio, per un'indagine che abbiamo fatto su questo genere di immobili, mi è capitato di vedere in zone centralissime, a Milano, nel corso 22 marzo, per dirti, sui Navigli, nelle aree immediatamente limitrofe, quelle che una volta erano negozi di parrucchiere, o addirittura una cioccolateria, dei vecchi negozi che hanno il loro fascino, e alcuni hanno anche tenuto fuori non soltanto quella che era la Claire, ma addirittura la vecchia insegna. La vecchia insegna ci sta, non la devi alzare. Ecco, sì. Ma Andrea, scusami, per quanto riguarda la parte normativa, appunto, il cambio di destinazione d'uso, che magari scoraggia molte persone, perché pensare di dover affrontare la burocrazia italiana è sempre qualcosa che ci mette di cattivo umore. Sì, ma in realtà chiaramente i piani variano da comune a comune, ma sono molto più semplici le riconversioni d'uso di questo genere rispetto a quanto non si possa pensare. Faccio crollare un mito per quelli che vengono riconvertiti così vengono già ripensati per l'abitazione di persone, quindi uso civile, e diventa più semplice. Quelli che ci vengono venduti come loft, e che loft sono realmente tecnicamente un accatastamento C3, ad esempio non possono essere abitati, non ci si può chiedere una residenza, non ci si può richiedere un mutuo per la prima casa, perché sono tecnicamente dei locali commerciali con permanenza di persone, quindi un ufficio dove ci puoi dormire ma non ci puoi vivere. Quindi certo. Attenzione, perché paradossalmente si può, una volta riconvertito, chiedere il mutuo per il negozio trasformato in casa, non si può richiedere un mutuo per l'acquisto della prima casa se si tratta di un loft. Grazie Andrea. E la curiosità è gli affitti di questi spazi rivisti, cioè un affitto di un negozio trasformato in appartamento è inferiore, uguale o superiore a quello di un appartamento della stessa metratura? È inferiore tanto quanto paradossalmente migliore il rapporto per l'acquisto, perché in acquisto costa il 25% in meno. Una medesima metratura. L'affitto si risparmia solitamente intorno alla 15%. Beh, questo è interessante. Non è male, anche se forse, come dicevi tu, parlavi di zone molto centrali, lì sarà diverso, immagino, perché gli affitti in centro a Milano per gli spazi retail sono... Insomma, sono notevoli, per cui non lo so se nella riconversione in abitazione ci si guadagna, tu dici? Eh sì, perché in realtà oggi è molto difficile, purtroppo, ritrovare qualcuno che è disposto a riaffittare il negozio come tale. Quindi è una soluzione da tenere presente. Ma anche per affittarlo, magari per acquistare un appartamento. Ho acquistato un negozio, non è male, mi piacerebbe anche. Andrea, invece quanto spendono gli italiani per l'arredamento della casa? Eravamo partiti da lì, e dove spendiamo di più? Si spendono mediamente, questi sono dati di prestiti ad esempio, dei prestiti, chi chiede un prestito per la casa spende mediamente 8.000 euro per l'arredamento. La cucina, come dicevate prima, sì, è la cosa più importante come spesa, ma anche il soggiorno. Poi è altrettanto vero quello che dicevate prima, oggi le cucine si stanno restringendo tantissimo e sono polarizzate su due estremi, o incluse nel soggiorno, quindi un angolo cottura e via, o diventano di nuovo enormi se la metratura lo permette, sì. Mentre la condizio sine qua non oggi è il doppio bagno. Tutti vogliono un doppio bagno. E certo, tutti vogliono la loro privacy. Facciamo una casa solo di bagni, in poche parole, e basta. Uno di servizio e l'altro non disturbate, mi sto leggendo Guerra e Pace, ho bisogno di tempo. Uno di servizio anche cieco, non importa, ma che ci sia il secondo, il primo invece diventa quasi un bagno di rappresentanza. Quindi si spende tanto per scegliere delle soluzioni anche di arredo di ceramiche, dicevate prima, sì, ad esempio, molto molto costose, perché diventa quasi un po' il biglietto da visita, paradossalmente, della casa, perché quasi tutto il resto ormai è abbastanza standardizzato, per cui questo è il come sta cambiando. È un po' la distinzione, insomma, la personalizzazione del proprietario è nel bagno, diciamo così. Sì, uno quando entra a casa di qualcuno, una volta io guardavo i libri, adesso guarderò il bagno. Il bagno. Ecco, vabbè. Sai, tra l'altro, l'altra cosa, una delle cose che amano gli italiani fare è ricevere ospiti in casa, sì. Quindi oggi riceveremo in bagno i nostri ospiti. Magari con una jacuzzi, hai capito, certo. Così che se qualcuno vuole può anche rilassarsi. Grazie Andrea Polo, dimmi. Ciao. Scusa. No, dicevo una cosa curiosa, sì, che no? Arriva dagli Stati Uniti, c'è un'attrice premio Oscar, sì. Che lei dichiara che ad esempio il suo Oscar lo tiene nel bagno fisicamente, perché sa che tutti i suoi ospiti vogliono provare la sensazione di tenerlo in mano e vedere che sensazione fa. Questo non lo possono fare in salotto davanti a tutti, certo. Quando sono in bagno con la porta chiusa possono fare quello che vogliono. Hai ragione, grazie Andrea Polo, ciao, buona domenica ancora. E io sono anche curioso di vedere le porte dei bagni, se si usano ancora i vetri, quelli vedo non vedo, oppure si mettono il legno completamente dove non vedi assolutamente nulla, non lo so. Hai qualche informazione, Giovanna? Direi che il vedo non vedo fa molto vintage, però si preferiscono finiture più decise, diciamo così, okay. Insomma, sì, più chiuse, sì, più chiuse, ecco, in questo senso. Appunto dicendo che l'obiettivo poi è quello, no, della stanza, che è la stanza per noi, della cura anche di noi stessi. Forse non a caso le donne passano quasi il doppio del tempo degli uomini in bagno, ovviamente per il trucco, tutto il resto, ma è proprio la cura di sé, è il momento per sé. Quindi il momento in cui ci si guarda anche dal punto di vista introspettivo, no? Guardi allo specchio e comincia a pensare, va bene. Allora, quindi adesso avete capito, quando entrate a casa di qualcuno guardate il bagno e da lì poi potrete capire tutto, ormai ci stiamo dirigendo in questo senso. Aggiornamenti sul traffico, vi ricordo ancora i vostri sms, ce ne sono tanti, approfitto della piccola pausa traffico per leggerli, 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Casa, dolce casa, appunto. Sono arrivati tanti messaggi, sto cercando di raccapezzarmi un attimo perché poi gli argomenti sono anche molti che riguardano appunto questo. Giorgio Tartaro, ciao, buona domenica. Ciao, domenica a tutti, buongiorno. Giorgio si occupa di progetti per la comunicazione del design e l'abbiamo chiamato per farci raccontare un po' come sarà la casa del futuro, quella che viene chiamata ormai da tempo domotica, ma non soltanto. Io sono stato incuriosito dal fatto che un americano, credo in uno stato della California, abbia pubblicato online, in rete, il video intero di un ladro che gli è entrato in casa durante la sua assenza e gli ha rubato un po' di cose. Si vede questo ragazzo che entra alla finestra, sale le scale, cerca, poi sale le scale, scende dalle scale con due borsoni pieni di roba, prende ancora qualcosa e se ne avvia da una porta di servizio. Esatto, sì, certo, potremmo anche proporlo, chiaramente. Quindi mettete tutti una telecamera nella casa e poi costruiamo un format in questo modo. Le ruberie migliori le manderemo in onda. Esatto, perché chiede di riconoscere questo tizio, perché poi si riconosce perfettamente, insomma, quindi come è vestito, eccetera. Quanti italiani stanno facendo la stessa cosa? Io avevo la telecamera, lo dico, quest'anno collegata in rete, quindi avevo la visione dell'appartamento costante. Certo. Però, insomma, io sono appassionato. La casa del futuro, nel senso che esiste da un po' di anni, io ne scrissi una decina d'anni fa, parlai di maggiordomo silenzioso, nel senso che è una cosa, una rete nervosa al servizio della casa. È come se l'interfaccia, cioè la centralina che regola la domotica, fosse il cervello e appunto l'innervamento e l'impianto domotico. Sì. Non serve solo per intrusione, serve oggi tantissimo anche per la gestione delle risorse, appunto in funzione di una casa sostenibile. Quindi forse la casa del futuro che abbiamo visto nei film si è un po' ha virato verso la casa sostenibile. Ecco, perché scusa se ti interrompo Giorgio, mi ricordo sì. C'è stata anche una linea di interruttori che si comandavano o con lo sfioramento ma anche con la voce, non credo che abbia avuto un grande successo. Ma sono applicazioni particolari, sì. Vuol dire che il touch, il contatto e il tatto ha sempre la sua funzione. Quello sì, ma la voce... Sì, infatti, anche se devo dire che la domotica non va necessariamente capita, un po' come il PC, se noi dovessimo capire come funziona un apparecchio, un telefono, un computer, probabilmente non lo utilizzeremmo. E anche in quel caso, come per il cervello umano, la domotica è utilizzata in minima parte rispetto alle potenzialità che ha. Però, per esempio, come dicevo, in funzione di risparmio energetico, ma anche di applicazione di scenari, cioè tu esci di casa senza fare il passaggio e spegnere tutte le luci, schiacci un bottone e si setta tutto sul fuori casa, ecco, per fare un esempio. Sì. Per cui sono soprattutto degli scenari e una... appunto, dicevo, un maggiordomo silenzioso che aiuta a gestire le case. Si parla ovviamente di case grandi, ma anche nelle piccole c'è la possibilità di farlo. La cosa importante è, in fase di ristrutturazione, predisporre questo innervamento, cioè il passaggio era il doppino telefonico, diciamo questi cavi, questi impianti che riescono poi a gestire dalle finestre. Quindi dici, bisognerebbe pensare dall'inizio, perché altrimenti diventa un po' più complesso. Questo tutto. Sì. Anche nei miei programmi televisivi dico, rivolgetevi all'architetto, al professionista, se no si fanno errori che vi fanno spendere il doppio. Ecco, i costi, Giorgio, rispetto ai benefici. Sì. Sono progressivi e flessibili e modulari, nel senso che a seconda di quello che tu vuoi fare, spendi, così come gli accessori di un'autovettura, diciamo così. Sì. Per cui da qualche migliaio di euro base, e poi dipende dalla centralina che installi, soprattutto dai servizi. Se tu hai una casa domotica automatizzata dove, non so, scendono le tapparelle, si irrigano i fiori, c'è l'antintrusione, le telecamere, come dicevi, piuttosto che la gestione del clima con fonti rinnovabili, cioè sole, pompa di calore, eolico, allora a quel punto lì c'è una, come dire, una Ferrari super accessoriata. Ecco, come diventeremo, scusami, come veramente gli alieni di Marte, di Mars Attack, cioè con questo cervellone grande, tutto il resto non lo usiamo più. Cioè, No, ma infatti, guarda, io sono sempre per le soluzioni intermedie. Come dicevo, facevo la battuta, noi usiamo una piccola parte comunque del nostro cervello, allora anche nella nostra proiezione domestica, cioè la domotica, usiamo la parte che ci serve. Forse potremmo usarne un po' di più per fare la battuta. Sarebbe bello anche, non so, sai, chiudere le tapparelle ancora con la corda, sai, magari così usi un po' le mani al posto che schiacciare il tastino, anche se, ammetto, è più comodo. Però, Giovanna? Sì, no, volevo chiedere a Giorgio se mi conferma che però in questo modo anche si risparmia molto, anche un 30% di consumi, per cui nel lungo termine è un investimento comunque che si recupera e che vale la pena fare in qualche modo. E poi ci sono anche delle piccole cose, questa intelligenza ci aiuta anche se non ci ricordiamo cosa c'è nel frigorifero, si può comunicare da lontano per fare la spesa prima, insomma è anche qualcosa che aiuta. Con il telefonino, esatto. E quindi anche delle cose per la vita quotidiana, pratica, certo. Effettivamente. Senza... Ma anche il telecomando da telefonino, appunto, da iPhone o qualsiasi altro apparecchio, che è in contatto, in interfaccia con appunto la gestione, la centralina di gestione. Faccio un esempio: io voglio tornare a casa e non trovare tutto chiuso, sto arrivando in auto, mando un messaggio e a quel punto lì la casa si predispone ad accogliermi. Molto interessante quello che dicevi a livello di risparmio energetico, perché veramente la centralina domotica riesce a switchare nel caso ci siano appunto delle fonti diverse, cioè fonti primarie e rinnovabili, cioè dei pannelli solari, fa capire alla caldaia quale energia utilizzare, quale meno utilizzare. E questo è interessante sicuramente. Sì. Io sull'altro aspetto qualche dubbio ce l'ho, Giorgio, ti dico, io sono un grande fan e appassionato di tecnologia e quindi sono cose in realtà che seguo e che conosco, però io non so, dire alla casa come la voglio trovare quando rientro mi disturba un po', perché era anche... un esempio iperbolico. No, ma lo capisco, ma hai ragione, Giorgio, ma tanti esempi iperbolici poi sono trasformati un po' in realtà, alcuni, no? Ecco, per cui il fatto di entrare invece e andarti ad accendere quella luce, cioè predisporre tu la casa per come... Certo. Non la vuoi trovare subito, ma te la crei in quel momento, io credo che sia bello, non so, anche quello. Ma guarda, tu hai toccato un punto perfetto, la luce. Ecco, sì. Secondo me la domotica è la gestione. Noi abbiamo nelle nostre case una luce non di qualità, assolutamente. Lasciamo perdere il risparmio energetico, ma non sappiamo come dosare nelle ore della giornata la nostra luce. Spesso non ci rendiamo conto che c'è una luce che ci acceca o non vediamo nulla. Dovremmo veramente ragionare su luci d'accento, come si dice, degli spot, delle luci che illuminano dall'alto, dal basso, radenti, cioè avere un complesso di varie fonti di illuminazione e non una sola lampada che è quella. E noi arriviamo al lampadario, sai, insomma, come fai una lampadario? Oddio, diciamo che i fratelli Castiglioni già negli anni 60 avevano tolto il lampadario, avevano potuto utilizzare varie fonti luminose, però insomma. Adesso io non so se possiamo fare anche pubblicità, direi di no, ma insomma vabbè, ci sono sì. Non c'è nessun problema. Per esempio ci sono delle applicazioni e in questo caso è Philips, ha lanciato un nuovo progetto di luci che addirittura cambiano la gradazione, l'intensità, sì. Ma anche tipo io c'è a seconda che ti sia arrivato. Io ne ho scritti nel 96. Vedi, un SMS, ti arriva un messaggio su Facebook, sì. Cambiano a seconda del tipo di luce, tu sai che cosa sta bene, accadendo. Quindi adesso molti di noi parlano da soli a volte, no? Perché te la prendi con la televisione pensando che ti ascolti e cose del genere, sarà così, i muri ascolteranno veramente, quindi dovremmo anche stare attenti a quello che diciamo. Anche le piante, sai che bisogna parlare alle piante. È vero, bisogna capire fino a che punto, però hanno fatto i nuovi vasi che ti avvisano quando l'acqua sta sì. mancando e quindi sì. devi riempire. Ecco. Ormai, infatti in base alla spesa, quello che si diceva prima, anche gli elettrodomestici sono interfacciabili. Il problema è che siamo comandati, alla fine siamo comandati, siamo comandati da tutto, non potremo più decidere niente, perché è vero che alla fine decidiamo, però insomma sai, e hai questo fuori posto e questo che sta scadendo e questo manco all'acqua, a un certo punto dici basta. Per me è un discorso di come dire, di settare giusto, ripeto, come usi il cervello, come usi il telefono, come usi il PC, così puoi usare la tua casa, cioè avere degli scenari pronti e predisposti e poi sapere come settare le varie cose. Chiaro che c'è molto più di quello che necessitiamo da un certo punto di vista. Sicuramente, così uno può scegliere liberamente. Grazie Giorgio Tartaro e buona domenica. Vi ricordo il suo sito che è giorgiotartaro.it. Tu hai qualcosa di domotico, uso questo parolone, a casa o proprio sei basica da questo punto di vista? Assolutamente basica, anzi ti dirò di più. Avere la connessione a internet, ecco. Sì, che sì. Però va a singhiozzo e... e soprattutto avevo un allarme che siccome ogni tanto scattava da solo l'ho staccato dal muro, per cui direi che proprio parlo con le piante, però ecco. Cosa che vorresti invece, potendo acquistare una cosa, o forse gli italiani cos'è che comprano di più in questo momento? Ecco, se la cosa che vorrei fare effettivamente, che è quello poi che molti fanno, trovare il modo di risparmiare in maniera sostenibile, insomma di fare qualcosa che sia anche utile, per cui l'illuminazione, si diceva, ormai le lampadine a LED lo sappiamo comunque sono praticamente obbligatorie per legge, ma rifare l'impianto di illuminazione, quello anche di riscaldamento, le caldaie sono diciamo così l'investimento che gli italiani farebbero più volentieri e che sono più disponibili a fare secondo i sondaggi. Ecco, francamente da quando si usano molto di più i LED le bollette sì. diminuiscono davvero. Moltissimo, sì. È vero, e poi durano molto anche le lampadine stesse, per cui effettivamente, infatti davvero risulta, è un sondaggio che è stato fatto sì. recentemente, pare che due terzi delle risposte sono per grande interesse e intenzione effettivamente di investire in questo, mentre su altre cose come la domotica oppure lavatrice, lavastoviglie a bassa temperatura, insomma altre cose magari più complicate, c'è ancora forse un po' di resistenza, come anche dicevi tu, c'è un po' di scetticismo, curiosità e scetticismo insieme. Hai qualche dato sugli elettrodomestici? Quello per esempio dove si spende di più, dove si investe maggiormente? Sì, sono lavatrici e lavastoviglie soprattutto, sono quelle in cui si investe molto, anche per avere dei modelli buoni in classe A o A superiore sì. A++ per esempio, che sono anche tra l'altro quelli diciamo che sono incentivati fiscalmente. Esattamente, per cui vale davvero la pena investire in questo, si risparmia molto, si ha un apparecchio che dura più lungo nel tempo. E quindi questi sicuramente sì, poi forni anche indubbiamente, ma direi soprattutto lavatrici. Insomma, le cose che ci aiutano nella vita quotidiana. Parliamo di casa ancora nella seconda parte del Riposo del Guerriero, i vostri messaggi al 349-238-6666 e poi nella pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. Le 11:07 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua Il Riposo del Guerriero. Stiamo parlando di casa oggi, il luogo dove siamo rientrati dopo le vacanze, se qualcuno le ha fatte, insomma, spero di sì, o comunque sia il luogo dove rientriamo sempre volentieri, non tutti, perché il nostro ascoltatore ci aveva detto che la casa dove vive è un po' come un vestito che gli fa prudere la pelle, è strano ma è così. Abbiamo parlato tra le tante cose anche del locale preferito, la stanza preferita degli italiani è stato il bagno, la cucina, ma il bagno è uno dei preferiti. E c'è un messaggio molto curioso di Lilli, un'ascoltatrice, che dice proprio con mio marito stavo facendo una riflessione, abbiamo notato che la maniglia della porta del bagno è quella più usurata, perché? E poi aggiungo, mia figlia ha 17 anni, di solito Lei è lì, che ecco, si vabbè, chiede. questo è normale. Cioè. C'è un altro messaggio, voglio leggerlo, dice Radio 24, ma perché non prova a parlare del diritto d'abitare, delle gestioni pubbliche? Perché il programma è Il Riposo del Guerriero e quindi è un programma, si chiama Ortocalco della Domenica, di divulgazione per alleggerire il peso, diciamo così, della settimana. Nasce per questo motivo. È un argomento sicuramente che va affrontato, però questo non è la sede. Ci sono però delle cose che si possono dire, con me c'è Giovanna Mancini, giornalista di Casa 24 Plus, ne stavamo discutendo prima per quanto riguarda le nuove case popolari, per esempio. Sì, ci sono dei, ovviamente è una questione molto complicata, lo Sì. sappiamo, c'è anche una crisi che colpisce gli stessi comuni, che sono poi quelli che generalmente anche intervengono poi nell'edilizia popolare, però ci sono dei casi interessanti, ad esempio a Pavia, ma anche a Milano, di edilizia popolare resa un po' meno triste, se vogliamo, diciamo così. Sono progetti firmati spesso da architetti anche di una certa importanza e all'interno arredati con mobili messi a disposizione da grandi aziende del design, grandi brand, marchi importanti, insomma, che fanno anche delle belle collezioni con delle belle finiture, il tutto però a prezzi calmierati, per cui chiaramente non te le tirano dietro, però non sono neanche quei costi eccessivi che spesso fanno sì che per noi rimanga un sogno, insomma, per la maggior parte degli italiani rimanga un sogno avere una bella casa ben arredata con gusto e che rifletta la propria E le personalità. finiture sono la cosa Quindi più sono la importante. cosa più Sì. Certo. importante e anche un po' di personalizzazione, insomma, riconoscerci per evitare che, appunto, come succede al nostro ascoltatore, poi ci Non cruda stiamo la pelle, bene. esattamente. Quindi, appunto, il tema magari non è quello centrale della trasmissione, però ci sono anche dei progetti. Si sta cominciando, qualcosa si muove, ecco, questo si può dire, insomma. Grazie Giovanna. Invece per quanto riguarda, per esempio, tu adesso hai detto realtà di Pavia, Milano, mi viene in mente ancora un'Italia, tra virgolette, divisa, ma magari come mentalità o pensiero sulla casa. Ecco, sono diversi gli italiani? Ci sono effettivamente delle tendenze diverse che si notano tra nord e sud o centro, Sì. ma soprattutto con, diciamo così, con queste differenze si stanno un po' restringendo. Quello che ancora è molto marcato è una differenza tra città e provincia, per esempio, e comunque negli stili, nei gusti. Questo sì, ancora, diciamo, a nord piace di più lo stile, per quanto riguarda l'arredamento, lo stile di design minimal, piace sperimentare anche i nuovi materiali, parlavamo prima di finiture, piace il legno, anche per ragioni, se vogliamo, ambientali, climatiche, più caldo Sì. d'inverno, isola di più, mentre al sud ancora piace di più l'uso dei marmi, delle pietre, della ceramica, un gusto più tradizionale, la decorazione, i colori accesi, brillanti, quindi delle differenze effettivamente si notano nelle richieste. E poi ci sono delle differenze anche di stili di vita al sud, ma anche nelle città di provincia ci sono ancora case di taglio più grande, quindi con la cucina, dicevamo prima, non come accade spesso al nord nelle grandi città fusa con il salotto, ma per conto suo, e quindi cucine più grandi, arredate in maniera diversa. E anche qui la scelta delle finiture è quello che distingue molto, quindi l'uso di materiali ricchi, per così dire, più appunto al sud, mentre al nord un po' meno vistosi, diciamo così. Quindi qualche differenza ancora si nota ed è quella che a volte fa anche scegliere magari alle stesse aziende di andare a promuovere di più un certo prodotto da una Sì, perché è parte. più pensato Sì. per un pubblico che chiede quello, giustamente. Margot Zanni, buona domenica. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Margot si occupa di stile, è in contatto con tanti designer anche per Dalani.it. Margot, allora, dove spendiamo tanto quando, o comunque dove preferiamo spendere, potendolo fare? Adesso parlare di spendere è un verbo che è difficile usare in questo momento, purtroppo, però, insomma. Potendolo fare o accantonando per farlo, dov'è che spendiamo di più per quanto riguarda l'arredamento? Guarda, mi viene in mente quello che dicevate prima anche con Giorgio, direi le luci. Le lampade rimangono davvero il must have, quindi più una lampada è bella e anche se ha un costo alto si investe nella luce Ecco, sicuramente. cosa intendi per, tu hai parlato di lampada e non di lampadario, immagino, anche perché, insomma, Margherita scrive, viva le luci, ma basso il lampadario, ecco. Sì, perché perché le luci alla fine, che siano da terra o, oppure da appoggio, da tavolino, le puoi un po' modificare, le puoi mettere tu come vuoi. Il lampadario alla fine è centrale in mezzo alla stanza, io personalmente lo amo e lo consiglio, però non può essere l'unica luce di una stanza perché non puoi controllarle. Invece le altre lampade di, a varie altezze e dimensioni, puoi controllarle, puoi indirizzarle, per cui crearti il tuo angolo caldo, il tuo angolo freddo. Ecco, tu consigli il lampadario Margot come? Come lo vedi? Io, come ti piace, guarda, ma come lo vedo, consigli? Sì, lo vedo abbastanza importante. Se c'è, se si sceglie di avere un lampadario, lo vedo importante. Non nella pomposità magari del disegno, ma nella visione di insieme. Quindi io amo molto le forme di design, però anche un po' arzigogolate, ma come amo anche poi i cristalli alla fine. Mi piace che si veda. Se c'è, se si decide di avere, che si veda. Guarda, io vorrei, porca miseria, di Ingo Mauer, ma non potrei mai regalarmelo. So che nessuno mai me lo regalerà. Lo racconto agli ascoltatori che non lo conoscessero, questo designer tedesco, credo, è una sorta di lampadario grande con tutti dei fili d'acciaio e all'estremità di ogni filo c'è un pezzo di ceramica o delle posate anche, e sembra un'esplosione, sai quando qualcuno ti tira tutti i piatti addosso, tu vedi questo momento esploso, devi dare tu, se non mi sbaglio, a lui tra l'altro il servizio di ceramica che vuoi, che lui rompa per poi incollarlo eccetera. Il costo non lo dico neanche, per poi dipende da uno all'altro. Ecco, è un lampadario importante come quelli che immagini tu, Margot, questo? Assolutamente sì, è stupendo. Esatto, è proprio, è sembra un nido, no? Un nido, sì, di uccello, è un'esplosione totale, no, meraviglioso. Quello lo vedo anche per gli spazi commerciali, anche non in una casa che magari ha dei soggiorni un po' più piccoli, sì, però lo sceglierei assolutamente. Senti, tornando invece alle cose più pratiche, più facilmente acquistabili, tu sei per la lampada di design a tutti i costi o anche non necessariamente? No, assolutamente no, assolutamente no. Secondo me deve fare, l'importante è fare che faccia una bella luce, o comunque l'importante è che la stanza abbia una bella luce. Se la lampada poi è di design o non è di design non importa, è l'insieme, un po' il mix che si sceglie che fa la differenza. Quindi assolutamente prediligo il design magari un po' più funzionale, un po' più minimal, però in realtà anche il genere country o provenzale può illuminare in egual modo, quindi assolutamente non ho preferenze e non sceglierei il design a tutti i costi, ecco. Grazie Margot Zanni, ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Voi, io pensavo all'armadio, non abbiamo mai parlato dell'armadio. E adesso che citi l'armadio, sì. Mi viene in mente la camera da letto, sì, di cui in effetti non abbiamo parlato, una stanza che non interessa, sì. Esattamente. Beh, allora, piace molto, parlavamo prima di ragazzi, ai ragazzi fino ai 25 anni, è il loro luogo preferito. Sì. Dopo i 25 anni chi se ne frega della camera sul divano da letto. Per terra. Però un letto è quasi per sempre, perché secondo un sondaggio, sì, per il letto si spende anche, cioè non per il letto ma per tutto il rinnovo della camera matrimoniale, diciamo così, ma insomma per la camera da letto si spende tra i 2.600 e i 3.000 euro, che non è poco, però con l'obiettivo che il letto debba durare il più possibile, come un matrimonio, cioè... Bisogna trattarlo bene, esatto, il materasso, però fargli prendere la luce, c'è tante cose non si fanno. Esatto, bisogna... A chi lo fa? Però così bisogna fare, per fare in modo che poi, duri una vita, questo sicuramente. E allora, se sono aggiornamenti sul traffico tra pochissimo, poi parliamo intanto di guadagnare con la casa, perché si può, ma anche delle complicazioni, perché quando si acquista poi si ha a che fare con i condomini e non sempre la vita è felice in quel caso. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Rafa da Roma scrive: sono recentemente stato in Olanda, edilizia popolare da quelle parti è sempre esteticamente gradevole ed è l'indirizzo verso il quale si cerca di andare anche in Italia, grazie al cielo. E qualcuno invece fa notare che le lampade a LED non sono obbligatorie, ma sono state bandite quelle a incandescenza. Sì, insomma, poi le regole mano a mano cambieranno con il corso degli anni. Allora, Giovanna, come possiamo guadagnare con la casa? Questa è una domanda interessante, nel senso che voglio fare una premessa: non pensiamo che possa diventare un secondo lavoro o una fonte di guadagni milionari, però ci sono alcuni accorgimenti che si possono insomma escogitare per, sì, far sì che la casa sia anche un guadagno e non appunto soltanto questo 30% del nostro reddito che viene speso. Ci sono se vivete in un condominio, potrebbe essere, se riuscite a mettere d'accordo l'assemblea di condomini, e poi ne parleremo, poco, sì, esattamente. Ci sono due sistemi sistemi abbastanza remunerativi, che sono quello di ospitare grandi cartelloni pubblicitari, quelli che spesso vediamo e ci danno magari anche fastidio, soprattutto se abitati in una grande città, perché dipende molto dalle dimensioni e dalla collocazione ovviamente dell'edificio. Però per diciamo un 6x3? Diciamo un 100 metri quadrati, questo è il dato che ho io, in una grande città si possono addirittura avere 15-20 mila euro al mese, ovviamente poi da dividere per tutti i condomini. Invece se ci spostiamo in provincia diciamo, i guadagni si abbassano notevolmente sui 2.500-3.000 euro. Però è sempre un aiuto per un condominio. Però è sempre un aiuto, esattamente. E un altro sistema è quello di ospitare le antenne di telefonia, diciamo così. Molti hanno paura delle onde elettromagnetiche. Chissà cosa succede. Il cervello. Però adesso qui lo dico e qui lo nego perché non sono un'esperta, ma pare che in realtà sia meglio ospitarla sopra il proprio tetto perché le onde si propagano, quindi meglio noi che il vicino, per capirsi. E inoltre si possono, diciamo, guadagnare tra i 20-30 mila euro fino addirittura 80 mila euro. Sempre per condominio. Ma anche all'anno? Sì, diciamo che dipende molto dall'altezza del condominio. Se avete un quarto piano circondato da grattacieli, probabilmente non è il caso di proporre la vostra casa. Questo forse funziona più per le periferie, per esempio. Esattamente, sono meno servite. Sì, esattamente per le periferie. E poi invece ci sono dei sistemi più semplici se non avete voglia di stare a contrattare con i condomini per usare il vostro appartamento. Come? Se avete una bella casa, non necessariamente gigantesca, ma comunque importante, quindi parliamo di 150-200 metri quadrati, potreste, affidandovi, io vi consiglio a un'agenzia specializzata perché poi c'è tutta una parte burocratica eccetera, da rispettare. Mettere a disposizione la vostra abitazione come set di shooting fotografici, soprattutto per pubblicità, e anche set cinematografici. Anche qui i guadagni non sono esorbitanti, però mediamente, diciamo così, per un servizio fotografico si possono guadagnare tra gli 800 e 1300-1500 euro al giorno, ma si può arrivare anche a 2.000-2.500 se siamo in un contesto particolare. Se considerate poi anche la bolletta, perché aumenta, perché le luci collegate ovviamente vengono utilizzate, è chiaro, certo. Però comunque, se queste sono le, appunto, le cifre. Invece per gli spot o brevi produzioni televisive si guadagna tra i 1.200 e i 1.500, fino però a 3.000 euro. Parliamo una tantum, diciamo, a volte, mentre quello che diciamo che è più remunerativo, diciamo così, è ospitare un set cinematografico, perché ovviamente la base giornaliera è minore, però può durare per qualche mese. E altre cose più piccoline possono essere, che ne so, sempre per case molto belle o grandi, ospitare eventi culturali, anche soprattutto in città come Milano e Roma, delle presentazioni alla stampa durante la settimana della moda, o quindi affittarla così ai brand della moda. Diciamo che la location. C'è sempre stata, C'è sempre stata. Io credo che valga anche per un set fotografico, anche per gli appartamenti piccoli se sono particolari. Esattamente, bravo, sono le due cose che ci dicono le agenzie, sono proprio queste. O avete una casa gigantesca, per cui diventa soprattutto con una cucina grande, oppure una casa anche piccola, ma deve essere veramente caratterizzata da qualcosa di speciale. Per quanto riguarda invece il condominio, bisogna mettere d'accordo i condomini. Giuseppe Bica, buona domenica, grazie. Buona domenica, buongiorno a tutti voi. Giuseppe Bica è presidente dell'ANAMMI, che è l'Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Allora, mi spiace partire da una cosa non carina, ma dove litigano di più i condomini italiani, Giuseppe? Ma noi un tempo fa abbiamo fatto proprio una classifica basata sulle segnalazioni dei nostri 13.000 associati amministratori di condomini. E abbiamo visto che soprattutto il motivo del contendere è da ricercarsi nelle cosiddette immissioni, cioè i rumori o gli odori provenienti dagli altri appartamenti, il classico ticchettio delle scarpe femminili tutte le ore, l'odore di cipolla reiterato, lo spostamento dei mobili a tarda ora, e ancora ultima si è aggiunta la cucina etnica, la realtà di una metropoli al pari europea dà questo problema. L'insediamento etnico e la relativa cucina crea dei grossi problemi. Diciamo quel profumo di fritto costante. Ma a volte anche di spezie particolari che noi non siamo abituati a certo, sentire. Certo. Ecco, io dico una cosa, Bica, ma normalmente i condomini come si comportano? Per esempio, il ticchettio delle scarpe di sopra. Bene, con la scopa io faccio così sul soffitto, vado a suonare dicendo guardi, mi scusi, però, oppure no, mandano direttamente mai raccomandata al condominio, all'amministratore? Come funziona? Come si comportiamo? Secondo caso, oramai e il ricorso alla giustizia è sproporzionato e anche assolutamente non consigliabile. Pensi che oltre il 50% delle procedure civili riguarda il condominio, e quindi è veramente un contenzioso ampio, costoso. Oggi, insomma, con lo sviluppo in verticale dell'abitazione, sentivo prima nel programma appunto la scelta dell'abitazione, o sì, si va in periferia o in provincia o si va al centro o nella città. Nel centro della città necessariamente lo sviluppo è di tipo verticale e abbiamo questa convivenza obbligata di varie famiglie, quindi anche di diverse connotazioni sociopolitiche, culturali, antropologiche, insomma ne abbiamo veramente di tutto. Ecco, senta, rispetto al passato ci stiamo comportando meglio o peggio? Ma io direi che l'ignoranza dell'epoca, dei tempi addietro, sicuramente aiutava a una sopportazione coatta, la chiamo. Sì, oggi invece anche una cultura più specifica, una possibilità di accedere ai mezzi di informazione, vedi sicuramente internet eccetera, vede dipingere che cosa possiamo fare e che cosa dobbiamo fare, quindi ricorso all'avvocato, ma noi consigliamo come amministratori di condominio rivolgersi all'amministratore di condominio, e a questo punto dobbiamo proprio spezzare una lancia a favore di questa nostra categoria. Facciamola una figura che c'è, esatto. Usiamola, ecco. Ma tra l'altro ultimamente è stata anche di molto valorizzata. Avere un amministratore di condominio che è un vero e proprio manager del condominio aiuta anche a superare quei contenziosi che sembrerebbero non superabili. Quindi il mediatore, tra virgolette, di tante cause potrebbe essere proprio l'amministratore di certo. condominio. Senta, a questo punto io avrei una domanda per lei. La recente riforma del condominio ha semplificato o complicato la vita per noi condomini e per voi amministratori? Guardi, credo che si poteva fare qualcosa di meglio sicuramente. 60-70 anni di attività condominiale con la vecchia legge sicuramente ha disegnato i limiti di questa carenza legislativa. Si è fatto poco con questa riforma, ma sicuramente si è delineata una professionalità dell'amministratore di condominio prima sconosciuta. L'amministratore di condominio deve essere necessariamente un manager. Ecco, noi in Anammi facciamo periodicamente corsi per amministratori di condominio e non da ultimo anche corsi per condomini che devono conoscere esattamente quali sono i loro diritti. Ecco, quello io sottoscrivo. Ma tra l'altro il corso per i condomini. Io un'altra domanda, perché mi risulta questo dato, non so però se sia vero, appunto dottor Bica se me lo può confermare. Innanzitutto che il 60% degli italiani circa vive in condominio, quindi comunque la maggior parte. E poi se è vero che la stragrande maggioranza, cioè addirittura un 78%, sono persone con istruzione superiore, perché sono soprattutto nei centri, nei grandi centri, quindi statisticamente è probabile che lì si concentrino poi magari residenti. Sì, sicuramente. Quindi in teoria dovrebbero essere persone anche portate al confronto, alla razionalità. Però, diceva, è un confronto quasi distruttivo, cioè noi facciamo nei nostri corsi per amministratori di condominio, facciamo anche delle lezioni sulla psicologia del condomino, perché non dobbiamo dimenticare che uno studio reiterato e oramai scontato di certi psicologi dell'Università La Sapienza di Roma con la quale collaboriamo hanno descritto il condomino come una persona diversa da quello che incontriamo sul pianerottolo di casa quando viene in assemblea, si scatena secondo certi parametri che sono stati anche ben codificati, e quindi attenzione alla gestione di un'assemblea dove il moderatore, chiamiamolo così, se non l'amministratore di condominio, deve essere un vero professionista che sa. Anche da questo punto di vista. Sì, ecco, dottor Bica, c'è invece qualcosa sulla quale i condomini vanno sempre d'accordo? O più facilmente? Guardi, in questo periodo sì, è il non fare purtroppo. Lo status quo, manteniamo tutto com'è. Sì, perché il periodo è difficile, abbiamo paura che il nostro vicino non paghi, questa è la scusa ovviamente. Certo. E quindi lasciamo stare le cose, facciamo solo quello che è strettamente necessario per la sicurezza o per gli interessi magari del singolo condomino danneggiato dalla struttura condominiale. Grazie dottor Bicca e buona domenica. Grazie a voi. Grazie ancora. E, Giovanna, no, io credo che il dottor Bicca dicesse più la gente comunque è acculturata e più sa dove appigliarsi e quindi la lite diventa più, e tra virgolette, diventa uno pesante. Scontro tra personalità, sì. Probabilmente. E invece prima c'era più il lascia vivere, che non è che vada bene, perché poi appunto vivi come, punto di domanda, per lasciar vivere. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Giovanna Mancini, io ti ringrazio, grazie di essere stata con noi. Ti leggiamo ogni giovedì appunto con Casa 24 Plus insieme al Sole 24 Ore. E, tra l'altro, vuoi dare le indicazioni per, avete anche una pagina di Facebook? Abbiamo, se non mi sbaglio. Esatto, sì. Abbiamo il nostro sito innanzitutto, che tra l'altro sta, insomma, si sta arricchendo di nuovi contenuti, e poi vorrei dare il contatto nei nostri social network: Casa 24 Plus Facebook e Chiocciola 24 Casa Plus su Twitter. E quindi grazie a te Stefano e grazie agli ascoltatori. Buon ritorno a casa Giovanna, grazie. Buona domenica. Tra pochissimo invece ne parliamo, insomma staremo a casa, perché insomma la domenica è il momento in cui la famiglia spesso si ritrova e giocheremo insieme alle persone che sono con noi. Non soltanto questo, perché c'è anche il momento con la cucina, il gastronauta e anche il nostro cinegustologo, dopo le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Si gioca, è il momento di farlo sicuramente. Poi la domenica è anche la giornata giusta per farlo. La famiglia dovrebbe essere tutta riunita, e magari anche con altri pezzi, tipo i nonni che non sempre ci sono, e intorno a un tavolo si chiacchiera dopo aver mangiato, dopo aver pranzato, e si gioca soprattutto. Ciao Andrea Ligabue, il nostro ludologo. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Ecco, tu giochi sempre, ma la domenica è più giocosa, diciamo, o come gli altri giorni? Forse in famiglia tua è come gli altri giorni? Sì, è come gli altri giorni, anche se in realtà spesso con il mio più piccolo la domenica mattina è proprio, ci ritagliamo un'oretta e mezzo in cui facciamo un gioco io e lui, quando la grande dorme ancora e mia moglie anche lei rimane letto. Insomma, cominciate presto, siete giocatori mattinieri, diciamo così. Sì. E tutto questo preambolo perché l'argomento della puntata di oggi è la casa, e la casa è un ottimo posto per giocare una partita al tavolo, diciamo così. E cominciando con quale titolo, Andrea? Allora, il primo titolo di cui volevo parlare è I Coloni di Catan. Il collegamento con la casa non sembra diretto, ma in realtà per il mondo del gioco è molto importante. Per anni la casa tipica dei giochi, l'iconografia della casa per i giochi, era la casetta di Monopoli. Sì. Cioè tutti hanno ben presente la casa del Monopoli. La casetta verde e gli alberghi rossi più grandi. Esatto, no? Sì. Esatto. Dal 1995, diciamo, nel settore del gioco da tavolo per famiglie è stato pubblicato un titolo che si chiama I Coloni di Catan, che ha avuto un successo internazionale enorme, con milioni di copie vendute in tutto il mondo e trasposizioni anche su tablet, su computer, per Xbox. E uno dei pezzi caratteristici del Monopoli sono le case, che vengono chiamate colonie, che se scusi de, non del Monopoli, di Coloni di Catania, sì, sono le casette, che vengono chiamate appunto case, e le città, che sono, sembrano come delle piccole chiese fatte di legno. Questi, diciamo, nuovi simboli sono diventati a livello internazionale il simbolo del gioco da tavolo moderno, insieme agli omini di Carcassonne, che sono degli omotti buffi fatti di legno. Quindi il primo gioco di cui volevo parlare, che suggerisco a tutti, è I Coloni di Catan, che è un gioco per famiglie molto bello, si può giocare in 3 o 4 persone, con regole molto semplici ma davvero divertente. Bene, poi c'è un altro titolo invece che ha molto a che fare con le case, anzi con le ville. Sì, esatto, un titolo che ha vinto lo Spiel des Jahres nel 2002, si chiama Villa Paletti, ed è un gioco di destrezza in cui i giocatori, fino a 4, devono cercare di fare una costruzione insieme, man mano prelevando i pilastri di varie forme dal fondo e appoggiandoli su dei piani che vengono posti sulla cima della casa man mano. Il titolo Villa Paletti è una parodia tedesca, dell'autore tedesco, delle costruzioni e degli architetti italiani. E infatti mi viene in mente Palladio, per la verità, in qualche modo c'è un'assonanza, no? Ecco. Può darsi anche quello. E comunque il gioco è molto divertente perché tutte le partite terminano inevitabilmente con il crollo di questa, sì, casa, e quindi diciamo ed è adatto a tutte le persone, grandi e piccini. Ecco, uno non si aspetta altro che crolli tutto, insomma. Ecco. Sì, tra l'altro con un gran rumore, perché ogni giocatore ha 5 piloni colorati, quindi 20 piloni che crollano, è davvero un gioco divertente. più recente è uscito quest'anno uno dei titoli che ha fatto più successo e più scalpore proprio di quest'anno ed è pubblicato in Italia da Asterion Press, si chiama La Boca e anche qua i giocatori devono costruire una casa. Il gioco è molto divertente perché si gioca a coppie e le coppie vengono determinate di turno in turno durante la partita, quindi non c'è una coppia fissa, ma ogni turno due giocatori giocano insieme e devono costruire più velocemente possibile una casa utilizzando dei pezzi colorati secondo una figura disegnata in una carta. La cosa simpatica è che i due giocatori vedono i due lati della casa, cioè io vedo solo un lato, quindi come dovrà essere la costruzione finita vista dal mio lato e il mio compagno vede dal suo lato, e quindi insieme bisogna collaborare. Non so, le situazioni che si verificano al tavolo sono: dai, passami quello rosso, tu lo vedi? No, io vedo quello bianco, ma ne vedo solo un quadretto. Tutto così finché i due giocatori sono contenti, dicono la casa è pronta e meno tempo ci impiegano, più punti fanno. È una sorta di Tangram tridimensionale, da quello che posso capire, no? Di un Tetris, sembra un Tetris, sì. Perché i pezzi hanno anche un po' la forma del Tetris, però giocato da due persone insieme. E la cosa simpatica, l'idea secondo me veramente originale, è che ogni giocatore ha una visione parziale di sì, come sarà e non totale. Chiudiamo invece con I Tre Porcellini, che deve uscire. Sì, I Tre Porcellini è un titolo che chi ha la fortuna di andare agli Asterion Games Days il prossimo weekend, questo evento di gioco, potrà vedere in anteprima. È un gioco adatto a tutte le famiglie, basato su dei dadi rosa color porcellino. I giocatori, utilizzando i dadi, devono cercare di costruire la loro casa. Ovviamente ci sono la casa di paglia, la casa di legno e la casa di pietra, come nella tradizionale storia dei Tre Porcellini. Quindi gioco semplice, adatto a grandi e piccini, che vedremo in Italia, secondo me arriveranno nei negozi tra un mese. I Coloni di Catan, Villa Paletti, La Boca e I Tre Porcellini. Grazie Andrea Ligabue. Ciao Stefano e buona domenica a tutti. Emilio Cozzi, ciao, buona domenica. Buona domenica Stefano a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo di videogiochi nel tuo caso, ma anche perché nelle case, visto che questo è l'argomento di oggi, entreranno delle nuove console che arriveranno a brevissimo sul mercato e che per alcuni aspetti dovranno anche sostituire delle hardware che potremmo avere vicino al televisore. Quello che dici è assolutamente vero, stiamo avvicinandoci a novembre, il mese fatidico, diciamo atteso da tutto il settore da anni. Questa è l'ottava generazione di console, Microsoft e Sony, i due campioni per ora, i due colossi del mercato, escono con la loro ottava generazione, si daranno guerra, la famosa console war, e le console sono state presentate già a maggio, subito si sono visti due elementi su cui appunto si daranno guerra. Permettimi questa breve introduzione e poi torniamo alla casa, perché chiaramente c'entra, come dicevi tu. Vale a dire, da una parte il voler consolidare o riacquistare una leadership, quindi come dire accontentare subito il proprio pubblico, quello dei giocatori, dall'altra guardare al futuro. Con guardare al futuro intendo anche, come stavi dicendo appunto, permettere, dare dei sistemi di intrattenimento integrato, cioè fare in modo che la console non serva più solo per giocare, ma serva anche per giocare e magari per vedere delle trasmissioni televisive, vedere delle serie, vedere il cinema, parlare con gli amici in viva voce, parlare con loro tramite schermo, eccetera eccetera eccetera. Quindi quello che si chiama un all-in-one entertainment system. Soprattutto Microsoft ha fatto vedere questo tipo di caratteristiche, motivo per cui tanti giocatori si sono lamentati dando, come dire, precedenza a PlayStation. Adesso in realtà, dopo mesi, le due case madri stanno riavvicinando, stanno facendosi una guerra, in realtà avvicinandosi tra di loro, proprio perché il futuro, come dici tu, è questo, cioè la console sarà un pezzo importante del soggiorno e servirà, non dico marginalmente, ma non solo per giocare, mettiamola così. Ecco, anche perché io credo che alla fine alle società, a chi produce, in questo caso due grandi nomi, interessi di più prendere non gli hardcore gamer, ovvero i giocatori incalliti e fanatici, ma cercare di prendere tutti e quindi anche la famiglia, insomma anche chi insomma non gioca tanto ma più che altro vuole intrattenersi con la televisione. Guarda, appunto io credo questo faccia da spartiacque tra le due strategie. Cioè la prima, che è sembrata quella di PlayStation, dico sembrata perché finché non vedremo le console sono tutte teorie le nostre chiaramente, cioè quella di tenersi stretti gli hardcore gamer, quindi grandissima attenzione agli sviluppatori indipendenti, per esempio, che possono pubblicare sullo store di Sony senza nemmeno avere dei publisher, gioco permesso di utilizzare i giochi usati, cosa che invece Microsoft sembrava non ma continuano cambiare. A cambiare da questo punto di vista, si ascoltano di vista, ecco. Esatto, da questo punto di vista esatto, evidentemente qualcuno li ascolta o ci ascolta, perché grazie al cielo non sono l'unico a dirlo, e stanno avvicinandosi le strategie. Di sicuro quella del futuro è offrire, come stiamo dicendo, un sistema che non permetta esclusivamente di giocare, ma anche di usufruire di tutta un'altra serie di contenuti che vanno dalla musica al cinema, allo sport, penso a il rapporto che ESPN e Xbox vantano negli Stati Uniti, per esempio, laddove tramite la console tu puoi vederti tutto lo sport in diretta. In Italia è stata già annunciata una partnership con Sky piuttosto che con Mediaset Premium, per cui, come stai dicendo tu, la console diventa una piattaforma per l'intrattenimento tout court. Il gioco è una parte di sicuro consistente, ma che sempre meno, immagino, voglia rimanere centrale. Ecco, voglio chiudere con te con questo. In molte case è entrata qualche anno fa una console che ha rivoluzionato il mercato, soprattutto ha avvicinato le persone al videogioco, quelle che non giocavano, parlo della Wii. È uscita da un po' la Wii U, che è una Wii migliorata. E come vedi il futuro di questa console che sta un po' tremando, no? Sta un po' tremando, gli analisti si sono divisi in due. C'è chiaramente chi storicamente è un fan di Nintendo. Nintendo, come hai appena detto tu, ha rivoluzionato il settore facendo due cose molto semplici, facendo dei giochi dall'estetica estremamente semplice, estremamente leggeri, che potessero interessare anche i non giocatori, e grazie a questo approccio, per esempio, sdoganando per la prima volta in assoluto con Wii il pubblico, il videogioco al pubblico femminile, cioè le donne che erano un pubblico prima tra virgolette allergico al videogioco, forse disinteressato, con Wii hanno cominciato a giocare ai videogiochi. È stata una rivoluzione. Piccolo dettaglio, con Wii U le cose non sembrano andare per il meglio per il colosso giapponese. Adesso questa settimana è stato lanciato il 2DS, cioè un portatile di nuova generazione, che però ha un pochino deluso e entusiasmato allo stesso modo, per cui anche la critica si è divisa. Io, ahimè, la vedo in questo modo. Ricordi, e sicuramente tu lo ricordi bene, Sega, l'altro colosso dei videogiochi, a un certo punto si è messo a fare solo videogiochi. Sì. Potrebbe essere questo il futuro di Nintendo? È tutto nelle loro mani, sinceramente. Bene, quindi chi vivrà vedrà, come si suol dire, e anche per quanto riguarda i videogiochi questo detto vale. Grazie Emilio Cozzi, ti leggiamo grazie anche sul Sole 24 Ore. Sì, ciao. Assolutamente, ti saluto dicendo questa cosa: il futuro del gioco non sarà la console, il futuro della console non sarà il videogioco, forse sarà in casa, come stai dicendo tu oggi. Il riposo del guerriero. Abbiamo parlato di casa oggi, tra poco parliamo con il nostro astronauta. Una cosa volevo dire, sono arrivati molti messaggi, qualcuno dei quali chiede anche il ruolo, per esempio, per la pubblicità condominiale della quale abbiamo parlato. Lo chiederò a Deborah Rosciani di fare una puntata magari proprio su questo, su come guadagnare con la casa, una puntata di salvadanaio ovviamente. Grazie anche per gli altri messaggi, qualcuno che insomma racconta di come si è comportato con i condomini, qualcuno che dice gli amministratori sono importanti ma devono essere anche delle persone, perché invece qualcuno magari non si comporta come dovrebbe. Vabbè, insomma, queste sono questioni che poi riguardano gli individui, ma adesso è il momento di far crescere l'acquolina in bocca. Le suggestioni del gastronauta. Con le suggestioni di Davide Paolini. Ciao, buona domenica. Buona domenica, ora entriamo in cucina allora. Bene, sì, facciamolo subito, visto che il luogo che piace di più agli italiani è proprio quello, dopo il bagno, ci siamo. Sì, ma mi dicono che ho sentito che si sta riducendo la cucina. Sì. Bene, speriamo che prima o poi si ricominci. O diventa grandissima oppure viene conglobata e si riduce, sì. Io sono per la grandissima. Anch'io. Comunque. Va bene, allora io la prima suggestione è verso un'azienda agricola che si chiama Rosa dell'Angelo, è qualcosa di un po' diverso dall'azienda agricola, comunque produce dei salumi straordinari, questa Rosa dell'Angelo di Traversetolo, e si possono anche gustare a questo prosciutto bar che è appunto in Traversetolo, ma devo dire che ho visto come nascono questi diciamo salumi, soprattutto il prosciutto di maiale nero, perché ho visto questo allevamento allo stato brado che è davvero uno spettacolo. Poi ho visto le varie fasi della filiera, quindi lo consiglio vivamente. Oltre questo prosciutto di maiale nero, poi questa azienda è collegata ad un'altra azienda in Toscana che si chiama I Cipressi, e questa fa anche lì allevamento allo stato brado e cinta senese, quindi davvero sento già ancora il profumo e il gusto di questi salumi davvero eccellenti, appunto perché avvengono da un allevamento che è fatto come si faceva una volta. Ma andiamo in cucina e allora andiamo a Forte dei Marmi, al ristorante Magnolia dell'Hotel Byron. Ebbene, qui parto dal dolce, perché devo dire che c'è un dolce davvero speciale che magari nella prossima estate potrebbe anche diventare molto popolare come il panettone d'estate, ed è il torrone, un torrone freddo estivo fatto, diciamo, da questo chef che si chiama Mattei, e devo dire che potrebbe essere veramente una grande novità per il futuro sulla destagionalizzazione di molti prodotti. Però ovviamente non si mangia solo questo. Ho assaggiato un agnello di Zeri davvero eccellente. Ecco, Zeri io lo chiamo il paese che non c'è, perché è questo, diciamo, agglomerato di tante case in provincia di Massa, e tra appunto questa bellissima montagna, diciamo, toscana, dove c'è questo agnello molto molto pregiato. È una razza molto antica, devo dire che veramente è eccellente. E devo anche segnalare che chi, diciamo, cura questi agnelli di Zeri sono tre donne, e devo dire che una volta le ho sentite fischiare un po' di anni fa. Ognuno di loro ha un fischio completamente diverso e arriva il gregge, veramente qualcosa di interessante. Poi vedere queste signorine alla sera con un tacco a 12 centimetri, bene, veramente molto interessante e molto ma molto curioso. Bene, vi porto vicino a questi due posti, perché vi porto a Camaiore, dove c'è una gastronomia, ristorante che si chiama Il Merlo. Ebbene, assieme a un ricercatore, ma anche produttore in un certo senso di acciughe e di tonno, organizzano delle serate davvero uniche e straordinarie, anche perché io ho avuto la fortuna di assaggiare un tonno, addirittura una ventresca in scatola, di ben 25 anni, e qualcuno a questo punto dirà, ma è scaduta. No, assolutamente, era forse il tonno più buono, questa ventresca, che abbia mai mangiato in vita mia. Io di tonno ne mangio spesso e l'ho sentito in diverse parti del mondo. Bene, una cena dal Merlo a base tutta di acciughe, per chi ama le acciughe sicuramente è possibile, proprio perché c'è questo, diciamo, ricercatore che si chiama Roberto Ghezzi di Schooner, che così si chiama la sua azienda, che ha veramente in cassaforte delle cose davvero straordinarie, a cominciare da questo tonno che difficilmente si può ritrovare, però magari fino a 10 anni in scatole di latta si può anche forse trovare da qualche parte, qualche vecchia gastronomia, e vale la pena, perché devo dire che più è invecchiato, se il tonno era eccezionale quando è stato messo in scatola, e più è veramente buono col tempo, quindi si può parlare veramente di un tonno vintage straordinario. Io ho chiuso con le mie, diciamo, le cornie. Sì, anche perché adesso l'acqua in bocca ce l'abbiamo davvero. Poi tu, quei profumi e quei sapori li hai davvero sentiti, noi possiamo solo immaginarli. E però potremo andarli a recuperare grazie alle tue suggestioni. Grazie Davide. A presto, alla prossima. Buona domenica. Presenza. Ciao, c'è Marco Lombardi. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Il nostro cinegustologo, perché quando si assaggia qualcosa possono anche venire in mente le immagini di un film e viceversa. Marco, da dove cominciamo oggi? Ma io dunque comincerei all'interno di questo spazio parlando, come faremo anche credo nelle prossime puntate, di un film che è appena uscito nelle sale italiane, quindi invece delle solite classiche recensioni che fanno i critici cinematografici seri, io farei una piccolissima recensione associando il film che è uscito appunto nelle sale giovedì scorso, oramai giovedì il giorno di uscita del pellicole, con un piatto, con un vino. Io sono reduce dalla mostra internazionale di arte cinematografica veneziana, e sono usciti due film adesso nelle sale. Uno dei due è un film che non ha, ahimè, purtroppo preso alcun premio, ed è L'Intrepido di Gianni Amelio, con protagonista Antonio Albanese. È una storia, poi come sempre i premi delle giurie, si è d'accordo, non si è d'accordo, poi ha vinto comunque un italiano quest'anno, Sacro Gradi, Gianfranco Rosi. Un documentario, no? Un documentario, non proprio un film. No, esattamente, però oramai insomma poi la categoria dei documentari va benissimo, poi anche tutta relativa, perché è molto difficile stabilire cosa ci sia di veramente finto o di reale all'interno di un film anche documentario, perché quando si mette la macchina da presa a qualcuno che interpreta se stesso, alla fine interpreta se stesso, non è che sia proprio l'oggettività e la realtà assoluta, quindi è benissimo che i documentari così definiti siano all'interno del concorso e se la vedano e competano con i film e le sceneggiature, certo. Esattamente. Allora Marco Lombardi, torniamo all'Intrepido, dove si racconta una storia un po' particolare, abbiamo solo 3 minuti. Allora, e l'Intrepido è appunto la storia di quest'uomo, Antonio Albanese, bravissimo, che fa come mestiere, essendo precario, quello di sostituire gli altri, per cui, non so, tu domattina non hai voglia di fare il tuo programma radiofonico, io non ho voglia di scrivere il mio pezzo, arriva Antonio Albanese che lo fa al nostro posto, però facendo il sostituto di mestieri altrui, in pratica è un tuttologo, quindi si trova, oltretutto si chiama Pane di cognome, si trova tutti i giorni a dover fare delle cose che in effetti non gli appartengono, ecco, un giorno fa il muratore, un altro giorno fa il panettiere, un altro giorno fa il critico, eccetera eccetera, e quindi insomma è un modo piuttosto particolare di parlare, insomma, di combattere il precariato di oggi. Io questo film, poi naturalmente il mondo intorno ad Albanese è un mondo assolutamente duro, mi fa pensare a una pasta, però acqua e farina, quindi con una scioglievolezza maggiore, senza le uova, che fanno un po' da addensante, con il famoso sugo al nero di seppie. Perché questo? Perché innanzitutto, appunto, lui si chiama Pane, quindi fa comunque anche venire in mente l'idea dell'acqua e farina. È un personaggio molto tenero, molto dolce, molto scioglievole, molto fragile, molto indifeso, che però ha una sua grande positività di reazione rispetto al mondo difficile contemporaneo. Però il mondo difficile contemporaneo gli sta intorno, esattamente come il sugo al nero di seppie nella pasta acqua e farina. E oltretutto questo sugo al nero di seppie col suo colore tende un po' a invadere il personaggio e a invadere la pasta stessa, con una consistenza che è anche lievemente sabbiosa, vetrosa, quindi un po' un modo di rappresentare il mondo difficile intorno. E in questo processo oltretutto tende anche a sciogliere ulteriormente la pasta, il personaggio Antonio Albanese alla fine insomma resisterà, però sarà sicuramente contaminato dalle difficoltà intorno, quindi potrebbe essere appunto questo spaghetto o anche una pasta corta acqua e farina come un modo per rappresentare il film. Bene, scusami, non ce l'abbiamo, Marco, purtroppo. Allora, voglio ricordare l'Intrepido e poi hai dato anche un'idea per una ricetta, magari per questa sera o per questo pranzo, ovvero gli spaghetti al nero di seppia, magari quelli lunghi, ancora fatti come una volta con molto amido, che ben si addice a questo condimento. Grazie Marco Lombardi. Grazie a voi e buon appetito. Ci sentiamo domenica prossima e vi ricordo il sito che è cinegustologia.it. È tutto per questa puntata, grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, Benedetta Acri in assistenza, Peter Bescapè in regia e a voi. Buona settimana da Stefano Gallerini, ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10.